licenzia precorre il bel viaggio. Altro vivace raggio, altro lume tu porti, ovunque guardi, con quei possenti dardi. Dunque dirò che sceso giù dall'etereo Thank you. di noi fu amico, il bel raggio solare. Ei fu che allo prechiare, da me, da te, sulle caduche salve, scritte con raggi d'oro, dono virtute e di splendore all'alme. E spesso vir fu sotto il velare de foschi sensi ed una paga luce de foschi sensi ed una paga luce. Langue spesso virtù sotto il verno e foschi sensi ed una opaca luce ed una opaca luce. Spesso virtù sotto il velame de foschi sensi ed una opaca luce de foschi sensi ed una opaca luce. Langue spesso virtù sotto il velo de foschi sensi ed una opaca luce ed una opaca luce. serena, tranquillo, ciglio,